9:25. No, stavo lo zodiaco, stavo guardando la stazionaria. Ne ho comunque su 7 aggine, ne ho 1,5. Il cazzo. Allora non c'è su 7 aggine, a forte dinni. Cosa? Non serve? No, serve quando lo aspetto fregatele. Perché ieri con Gizzaffa l'avevo imbriato. Ehi, controllato, va bene, fotti dinni, così me lo sei a posto. Ehi, più tardi al limite provo con l'altro che me lo segna nella radio, capito? Ehi, ya, ho capito, ya, va bene. Ma quello là stai usando? No, sto usando il mio. E fammi sentire quello là. No, perché fischia. Devo staccare un filo e metterlo in un'altra posizione, il discorso è quello. La trasmissione meno male già esce, già lo sai. E le vale il fischietto. Fischietto, ogni voce va giù. Senza provare questo ZG, allora vatti è molto, neanche uno mi segna, stazionare 1,1. Figurati. Minimo di piazza a 10 watt, non metterò a 100, e c'è a vedere. A 100 mi segna, 100 watt ho messo e mi segna 0,2. Figurati, allora vuol dire che il pulsante è ossidato. Ma se l'avevo smontato l'anno scorso, l'avevi affugato con il GRC, secondo me si incanta. Senz'altro, niente di strano. Ho ripigliato fredda, ma il buon che nata la stufa. Mettilo lì, mettilo. E metti la stufa. Tu mi metti il fuoco sotto. Ci avrà freddo, poverino. Un poco, funzionava un poco da zenuma. Ma quando mai va? Sempre 0,2 va. E cosa ne so? Non so cosa dirti. Poco fa. Adesso 0,2 è una tacchetta, ho schiacciato 10 watt più 75 e stazionare ne segna 1. Il metro non è 75, 50 vi segna, non 75. Come 105? Allora dove c'è scritto watt la precetta è 0,2 è una tacchetta, dove c'è scritto watt, invece dove c'è scritto ROS è 1,6. Ah, no, vabbè, allora non c'è problema, c'è a posto allora. Però ho premuto il pulsante 10 più 75. Ho capito, già va bene. Comunque sta scendendo bene, c'è il bip giusto, quindi a posto. Eia, e allora non fa farmelo sentire, signor Fischietto. Sta succedendo, fischiami, io te lo faccio sentire, poi fischi, te lo sto dicendo. Parla al microfono. Ehi, perché ho sbagliato dove ho messo il cavetto della colonnina. Ah, beh, ci ammavi da sabbi. Era pronto per quello, già gliela capito, non ti preoccupare. Ehi, no, era a vedere come lo sentivo, perché da poco dagli altri non l'ho mai sentito. Già lo so. E non farlo. E andare. Cambialo così me lo fai sentire, da. Aspetta che attacco, così lo faccio sentire con fisco, là, così sei contento. E poi quando lo faccio lo fai sentire senza il fischio. Oggi Fuselli a pranzo, e Moscardini col sughetto, Piccantelli. Quindi cominciare solo, le grande ristorante, te lo sto dicendo. Ah, è salciccione con i carciofi che mi sono rimasti ieri sera. Buoni, dozzi, mintati. E poi il corso esaino. Pane, cipolla, buon avvero, di chi scintigliami. Come frutta, melone con prosciutto crudo. Buono, Dore, dormito, sì, me lo fai. Luca, ancora mangi, dici, là c'è quella letta di pollo. Me lo fai. Marino, non mangiare, basta, ti vedo da qua, sembro maiale, un giugno panza di bulbaro. Condor, ci sei, me lo fai. Aspetta un attimino. Ehi, chiama, già sono qua. Prova. Hola, hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ecco qua, ecco qua, aspetta. Metto le cuffie così me lo ti ascolto. Comienza per coso. Vaffanculo. Ok, allora, ci sei? Sì, si sente alternata. Sto provando con la metatone quando ero piccolino, non con quello grande, quindi stavo uscendo, senti, sì, da palazzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, uscendo, stavo uscendo, ah, l'alimentatore vicino c'ha. Eia, sto usando l'alimentatore vicino. Il microfono non è che sia molto, mi sembra... Basso, dove ci posso sono me, non è che c'è di più. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eia, già va bene, no? Però c'è, si sente un casino, vuoi l'alimentatore lì? L'alimentatore che sto provando, non posso mettere l'alimentatore grosso, lo sai che sono magari si incendia. Quindi farmi sistemare le cose. Sei a posto, non mettete problemi per quello. Ok, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora. Va bene, mettilo, sistemalo bene, se no così non mi piace il brutto. È logico, scusa, se lo sei detto. Aspetta, quando voglio attaccare l'altro microfono, vediamo se funziona, due minuti. Ehi, È ripresa, ripresa, vabbè. Vabbè, ci siamo dopo, che adesso mi collego con questi due microfoni e poi ti faccio sentire la parata, 15 minuti. Senza quel cavolo di rumore, non si comprende bene con quel rumore, non ce l'hai l'altro alimentato. La cancetta per non bruciarsi i baracchi d'oro, non per altro, non ti preoccupare per quella. Hai capito? Quindi sta tranquillo. Eia, chiama, sul 23 chiama, che lo metto sul 23. Eia, d'accordo, se ti chiamo dopo, ciao. Sul 23, che lo metto lì, non prende un cane in occhi, a ver se c'è qualcuno là. Sempre. Perché hai paura? Non ti spaventare per così poco. E cosa stai facendo, Marco? Attenzione, canale 10. Vi ho sentito, poco fa era giusto per sapere la zona di modulazione. Qui è Fabrizio da questa parte. Per sapere la zona di modulazione, Sassari, grazie. Sì, ciao Giuseppe, ben sentito anche l'altro amico. Dai, vi lascio alle vostre chiacchiere, era giusto per capire la zona, ero con l'altro amico, anche lui ha detto che dovevano essere ad Alghero, quindi aveva ragione, perfettamente ragione. E quindi ho chiamato per quello, dai. Vi saluto e proseguo qua che sto lavorando col computer. Buon proseguimento e grazie di aver risposto. Ciao Fabrizio. Capito, dai, io ti saluto, saluto anche a Gianni. Ciao Gianni, un altro amico da Sassari che è intervenuto, sicuramente lo ascolterai. A te Gianni, riprendi. Ciao Fabrizio, non sono Gianni, sono Giulio, ciao. Sì Giulio, qua c'è gente sul 10. Ma non mi senti bene? Sì, stiamo sovramodulando. Ah no, non sento nessun altro, sento a te, basta. Vai al 12? Sì, ok. Sono Giuseppe e Valerio, mi sembra, da Alghero. Ah già, Valerio da Alghero, sì, l'ho sentito qualche volta, però io purtroppo da Alghero non sono in condizioni ideali per arrivarci, è tanto meno lui quando non attacca il legnare, per cui non riusciamo a comunicare. Ciao Fabrizio, ben ascoltato dopo tanto tempo. Ciao Giulio, ben sentito anche a te. No, io mi ero qua, stavo ascoltando sul IG come alle volte faccio. Ultimamente sto riprendendo un po' ad ascoltare, ero tantissimo tempo che non accendevo il baracchino. E quindi niente, ho sentito lì l'Alghero e queste due persone che ho voluto chiamare per capire da dove erano, giusto per quello. Adesso ripasso qui che sto cercando di fare un lavoro al PC, devo sistemare alcuni file. Tutto a posto Giulio? Sì, tutto a posto per quanto riguarda la salute, vabbè, sono stato un paio di giorni ma mi sono ripreso adesso con l'influenza. Purtroppo comunque ho detto, il 2 del mese scorso, di questo mese è morta mia madre, ma era una questione di vecchiaia o papì, per cui è andata così, aveva 95 anni, avrebbe compiuto il prossimo mese, per cui bisogna accettare la vita. Condoglianze, ho sentito l'altro giorno che stavi parlando di questa roba qua, ho sentito, ti faccio le condoglianze. Ok Fabio, ti ringrazio. Bene, bene, infatti io ero all'ascolto, dopo le partite di calcio mi sono messo all'ascolto sul 10 come solitamente faccio, la sera poi non so se c'è entrato qualcuno prima o se c'è qualcuno ancora all'ascolto, non te lo so dire. Comunque ho sentito a te e appunto ho voluto chiamarti per salutarti soprattutto. Ti ringrazio molto, io molte volte poi qua o siamo qui da una cosa all'altra, non sto nemmeno facendo in questo periodo attività radio da altre parti, immaginati un po', non ho tempo. Però ogni tanto però rimango però molto in stazione a fare delle cosucce o riparare una cosa o sul PC e quindi faccio più ascolto questo periodo, quindi molte volte capita di ascoltarvi, è per quello. Beh, poi molte volte dipende anche chi c'è, chi non c'è, preferisco starmene solo in ascolto. Dai, ti ringrazio Giulio, dico comunque quando ti sento, se sei da qualche parte entra a salutare, su questo non c'è dubbio. Ciao Giulio, buona domenica. Ok, ciao, grazie di tutto Fabri, alle prossime. Ci sentiamo, io di solito mi sintonizzo su 10, perché diciamo, come tu avrai capito, non so se hai fatto ascolto su altri canali, il gruppo si è un po' diviso, siamo quattro gatti e purtroppo ci siamo divisi. Noi siamo rimasti sempre lì e qualcuno se n'è andato sul canale 20 o 23 che sia, non lo so di preciso. Comunque è successo così, pazienza. Le solite beghe, Fabrizio, ma non è un problema comunque. Grazie ancora, grazie soprattutto per avermi risposto al saluto, dai, ciao Fabrizio, alle prossime, fatti sentire, mi fa sempre molto piacere, ciao Fabrizio, alle prossime. Ok, ciao Giulio, grazie a te, ciao, passo sul 10 anche in ascolto.